Allora, pensavo, visto che anche in questa mattina rifletteremo ancora di più, no, sulla vocazione, pensavo che è molto illuminante per tutti noi attingere anche alle storie di vocazione dell'Antico Testamento per capire che cos'è la vocazione da parte di Dio. In effetti, nel Nuovo Testamento ci sono ovviamente storie di vocazione anche molto importanti, altre sono solo accennate, no? Pensate ad alcuni degli apostoli che vengono chiamati da Gesù. E poi non nel Nuovo Testamento, nel Vangelo e nelle lettere non si sa quasi nulla di loro, se non di alcuni, no? Alcuni, Pietro, Giovanni, Giacomo, in parte, no? Però si sa poco perché poi dopo la Pasqua di Gesù, certo comincia la storia della Chiesa e gli Atti degli Apostoli la narrano. E però gli Atti degli Apostoli a un certo punto si concludono, anzi direi che si interrompono perché comincia la nostra storia, la storia della Chiesa, la storia di ciascuno di noi, di tutti coloro che ci hanno preceduto. E negli Atti degli Apostoli senz'altro alcune storie di vocazione, pensate alla storia di San Paolo, no? E sono molto illuminanti e sappiamo diverse cose sulla sua vita, ma ecco, sono alcuni casi. Invece penso che nell'Antico Testamento ci siano più storie di vocazione e anche in qualche modo più sviluppate, no? Cioè, pensate al ciclo di Abramo, no? Sono molti capitoli della Genesi che narrano la sua vocazione e tutto lo sviluppo della sua vita. Pensate alla storia di Giuseppe, no? Dell'Antico Testamento. E sono anche lì molti capitoli della Genesi che narrano tutta la sua storia. E ogni storia di vocazione è illuminante per noi. Pensate alla storia di Ester, è tutto un libro. Alcune vocazioni sono tutto un libro, oppure alcuni episodi, no? Il libro di Giona è solo un episodio della sua vocazione di profeta. Allora, tutte queste storie senz'altro ci aiutano a capire i risvolti della nostra vocazione o della vocazione di altre persone che noi siamo chiamati ad aiutare. E allora io mi soffermerei un po' con voi questa mattina sulla vocazione di Mosè che abbiamo letto proprio domenica scorsa. Domenica scorsa noi abbiamo letto proprio il momento in cui Dio irrompe nella sua vita mentre lui stava pascolando il gregge di Jetro, suo suocero, sacerdote di Madian. Ecco, lui condusse il bestiame oltre il deserto, arrivò al monte di Dio, l'Oreb, l'angelo del Signore gli apparve in una fiamma di fuoco e dal mezzo di un roveto. Egli guardò ed ecco, il roveto ardeva per il fuoco, ma quel roveto non si consumava. Mosè pensò: voglio avvicinarmi a osservare questo grande spettacolo, perché il roveto non brucia? Il Signore vide che si era avvicinato per guardare. Dio gridò a lui dal roveto: Mosè, Mosè, rispose: eccomi. Questo è diciamo, nella storia della vocazione di Mosè, il punto centrale, cioè il momento in cui Dio si rivela, e poi il dialogo continua in modo molto, molto mirabile per noi, e c'è a un certo punto la rivelazione del nome di Dio. E noi ci possiamo soffermare sul fatto che a Mosè ha colpito il fatto che quel rovetto non ardeva, ha colpito il fuoco, sicuramente se un pastore pascola le greggi e vede qualcosa che brucia, indubbiamente questo attrae l'attenzione. Si è avvicinato e ha visto che il rovetto non si consumava, uno spettacolo mai visto. Pensate che Dio fa sempre così, cioè per farsi vedere, per farsi conoscere, per rivelarsi, utilizza qualcosa della sua creazione. Poi a volte a un certo punto fa sentire la sua voce, che comunque è una voce che in qualche modo si sente o esteriormente oppure interiormente. Però il fuoco è una realtà della creazione e il rovetto anche. Solo che tu, Signore, queste realtà della creazione le utilizzi in un modo nuovo. Non si consuma quell'arbusto, no? Non si consuma quell'albero. Però utilizzi cose della creazione per farti conoscere. Pensate che così il Signore fa sempre con Abramo per spiegargli la numerosità della sua discendenza, gli dice di guardare le stelle del cielo, di uscire dalla sua tenda, gli dice di guardare la sabbia del mare, anche se poi questo dialogo continua e anche lungo gli anni e Abramo, questo discendente, non lo vede, non, sono anziani, lui e Sara, e questo figlio non arriva, e il Signore gli dà fiducia, lo rassicura sul fatto che sarà così. Per questo questo nostro padre della fede, appunto, è stato, lo consideriamo padre nella fede, perché ha creduto a qualcosa che non si vedeva, però attraverso delle realtà create. Il Signore ci parla attraverso le stelle, la sabbia del mare, attraverso il fuoco, attraverso un arbusto. In questo caso sono mescolate queste realtà create in un modo nuovo. Siamo abituati come esperienza che il fuoco bruci. Bruci gli alberi, bruci le foglie, no? E allora si produce fumo e comunque, e a un certo punto il fuoco finisce. Invece questo fuoco che viene da Dio non consuma e quindi non finisce. Può parlare a Mosè e a ciascuno di noi del fatto che, della potenza di Dio, del suo amore infinito, che non consuma la nostra natura, ma invece la illumina. E poi più avanti nella scrittura, ecco, nel Nuovo Testamento ci viene spiegato che questo rovetto, che questo fuoco è Gesù Cristo. È un'immagine di Gesù, ed è bello pensare a Gesù come un fuoco d'amore che non consuma la natura umana, ma la ravviva continuamente. Ed è bello pensare che ciascuno di noi può essere identificato con Cristo, questa è la sostanza della nostra vocazione, identificato con Cristo per avere dentro di sé il fuoco dell'amore di Dio, che non consuma, anzi ringiovanisce, rafforza, illumina. La chiamata di Dio è sempre personale per nome. Mosè, Mosè, è un nome spesso ripetuto e a cui noi rispondiamo eccomi, ed è una chiamata personale ad entrare in comunione con Lui. E poi sempre c'è un compito che il Signore ci affida. In questo caso a Mosè affiderà il compito di guidare il suo popolo fuori dall'Egitto, verso la terra promessa, una terra dove scorre il latte e il miele. Allora è bello pensare che, appunto, come spesso succede nell'Antico Testamento, viene raccontata anche tutta la storia fin dalla nascita. Anche ciascuno di noi può pensare che fin dalla nascita il Signore ha pensato a noi, no? Questo, e poi queste nascite hanno qualcosa, a volte qualcosa di straordinario. Nel caso di Mosè è la salvezza dalle acque, che è un po' straordinaria, no? Perché avrebbero dovuto essere eliminati questi bambini degli ebrei per l'ordine del faraone, invece la mamma lo mette su quella cestello, no? Reso impermeabile, ecco, sul Nilo, perché potesse arrivare là dove c'era la figlia del faraone, e che si innamora di questo bimbo e effettivamente poi addirittura lo fa allattare da lei, insomma, con un piccolo stratagemma. La madre riesce a continuare ad allattarlo e poi lui crescerà nella casa del faraone. Fin dall'inizio, fin dal grembo di mia madre mi hai chiamato. Anche noi possiamo dire, insieme con il profeta, no? Fin dal grembo di mia madre. E in questa... E tu, Signore, chiami Mosè dopo che, fra l'altro, lui commette un omicidio, per salvare, per difendere i suoi connazionali, però uccide un egiziano e poi fugge lontano per non essere, perché insomma lo vorrebbero catturare, e questa fuga lo porta proprio nel luogo dove il Signore lo chiama. È sorprendente per noi vedere questa grande libertà di Dio, che fa convergere verso il luogo della vocazione anche storie di peccato della vita. Storie di peccato. Poi c'è molta generosità in quest'uomo, infatti anche l'altro episodio che si narra prima della vocazione è che lui insomma difende un po' le figlie di questo suo futuro suocero, ecco, dai mandriani che e le hanno scacciate dal luogo dove stavano abbeverando le bestie, no? E allora viene invitato a casa e poi si ferma lì e sposa una di queste figlie. Quindi nel luogo lui è rifugiato, è nascosto, lì gli arriva la chiamata del Signore. La chiamata del Signore, fra l'altro, ad andare dal faraone, quindi, come dire, a rischiare, ecco, di essere di nuovo riconosciuto e accusato di quel delitto che aveva compiuto. Possiamo dire che il Signore con il suo fuoco purifica anche tutta la vita e non bada, ecco, al fatto che siamo peccatori per chiamarci ad avere una comunione con Lui e una missione. Questo accade a noi e accade a tutte le persone. Sappiamo che tutti siamo peccatori, no? Eppure tutti siamo chiamati da Dio alla santità, cioè quindi a, che significa all'amore di Dio e degli altri, alla comunione con Lui e a diffondere questo amore. In fondo è molto semplice la vocazione, non è complicata. Non è complicata, il resto, cioè l'essenza è sempre questa, poi, vabbè, poi dopo ci sono tutta una serie di mezzi, di suggerimenti, di tappe per questo cammino, di aiuti, però è bello andare alla sostanza, no? Il fuoco di Dio che non ti consuma, ma anzi ti riempie di calore, ti riempie di amore e ti riempie di luce. Per cui ciascuno di noi può essere, come diceva San Pietro nella sua lettera, una fiaccola accesa in un luogo oscuro. Questo è il cristiano. Il nostro padre San José Maria usava l'immagine del fanale, del lampione acceso che illumina la strada, acceso da Dio, acceso dalla grazia di Dio, acceso dalla luce del Signore. Non viene da noi la luce e non viene da noi la vocazione. È Dio che si fa avanti con Mosè, anzi. Mosè fa obiezione, evidentemente, no? Quindi, perché non si sente all'altezza. Anche questo è normale, è normale, non sentirsi all'altezza. Nessuno di noi è all'altezza di una vocazione divina, e nessuno mai lo potrà essere, è solo ecco, per la grazia di Dio che chiama. Che un essere umano può così ecco ricevere la vocazione, aderire alla vocazione e anche compiere in parte, spesso con tante insomma, inadeguatezze, il compito che Dio affida. E Mosè riceve il compito di, ecco, Dio dice: ho osservato la miseria del mio popolo in Egitto, ho udito il suo grido a causa dei suoi sovrintendenti, conosco le sue sofferenze, sono sceso per liberarlo dal potere dell'Egitto e per farlo salire da questa terra verso una terra bella e spaziosa, verso una terra dove scorrono latte e miele, verso il luogo dove si trovano il Cananeo, l'Ittita, l'Amoreo, il Perizzita, l'Eveo, il Gebuseo. Poco prima, questo è Dio che parla a Mosè, no? Poco prima, introducendo questa teofania del Monte Horeb, nel libro dell'Esodo si legge questa frase bellissima: Dio ascoltò il loro lamento, Dio si ricordò della sua alleanza con Abramo, Isacco e Giacobbe. Dio guardò la condizione degli israeliti, Dio se ne diede pensiero. Dio ascoltò, Dio si ricordò, Dio guardò, Dio se ne diede pensiero. Vedete com'è bella la descrizione di questa attenzione di Dio verso i suoi figli, il suo popolo. E pensate che anche noi dobbiamo avere questi stessi atteggiamenti. Quando Dio ci chiama, ci chiama alla comunione con sé, quindi ci passa tutto quello che Lui è, ci dice, ci fa partecipare del suo cuore. quindi ci chiama a ascoltare le persone, a renderci conto, no? A ricordarci degli impegni che abbiamo preso con Dio innanzitutto e poi anche con loro, a guardare la loro situazione. Pensate a tutte le opere di misericordia corporale, spirituale a cui siamo chiamati a riscoprire. Senz'altro noi le operiamo quando ci accorgiamo. Ogni amore è estasi, è uscire da sé. È l'estasi dell'amore, uscire da sé per guardare l'altro, no? E il Papa Francesco, tra le tante espressioni che usa frequentemente, c'è questo discorso, lo dice, della Chiesa, no? La Chiesa in uscita, no? In uscita. E ciascuno di noi lo può vivere come un atteggiamento anche personale, poi lo si vive anche, occorre viverlo anche in qualche modo, sì, collettivo, comunitario, familiare, sociale, però anche come atteggiamento interiore, uscire da sé per amare. E in questo modo la nostra vita ha un significato molto bello e ci rendiamo conto continuamente dell'efficacia della vocazione divina. Ogni battezzato ha questa vocazione, ogni essere umano che viene sulla terra è chiamato da Dio alla comunione con Lui e a scoprire il suo amore e a diffonderlo intorno a sé, ad amare Dio con tutto il cuore e con tutte le forze, ad amare gli altri come se stessi, di più ancora ad amarci tra di noi come Gesù ci ha amato, quindi ad amarci con lo stesso amore di Dio. E per fare questo Mosè fa fatica, dice: chi sono io per andare dal faraone e far uscire gli israeliti dall'Egitto? E il Signore gli risponde: io sarò con te. Non dobbiamo, o meglio, cioè può capitarci di pensare che di sentire la solitudine o di non sentire il Signore vicino. A volte può succedere nella vita, può succedere anche a lungo, come percezione così sensibile o interiore, però in quel momento deve intervenire l'atto di fede. Credo in te, Signore, che mi hai promesso che sarai con me. Il Signore ci dice che è con noi. Il Signore non abbandona mai coloro che ha chiamato. Noi abbiamo anche la certezza piena d'amore della vicinanza di Maria, della sua protezione materna, del suo sguardo che non ci lascia mai. Quindi accade sempre in una vocazione che il Signore ci lancia a fare qualcosa di più grande di noi, e allora questo ci atterrisce, ci fa venire paura, e però poi il Signore ci dice: io sono con te. E quello che, per rassicurare Maria, le dice l'angelo Gabriele, dice: il Signore è con te. Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te. Questa vicinanza del Signore, questo stare con noi, noi lo sperimentiamo attraverso la fede ogni giorno nella messa e nella comunione eucaristica. il Signore che viene da noi, viene da noi, viene a trovarci, viene a stare con noi, viene a riempirci del suo fuoco d'amore che non brucia, che non consuma ma che sostiene. E così poi evidentemente Mosè mette anche altri ostacoli, altre difficoltà, altre paure, e il Signore gli dona anche dei doni un po' straordinari per far vedere che è proprio il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe che l'ha chiamato per far vedere dei segni, ecco, divini e prima rivela il suo nome, no? Chi devo dire che è? Se mi diranno qual è il suo nome, il politeismo, i vari dei, e allora il nome invece del Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, che è l'unico Dio, è Io Sono. Dio disse a Mosè, Io sono colui che sono. Quando Gesù dice Io sono, lo dice molto spesso, diciamo relativamente spesso, soprattutto nel Vangelo di San Giovanni, Io sono. E vi ricordate davanti ai soldati che vengono a prenderlo, sono io, e quelli cadono a terra. Io sono Dio, e questo è un nome sublime su cui tanto si può riflettere, è l'essere, è l'amore, e quindi ha una potenza divina che ci può rassicurare in ogni difficoltà del cammino. Chiediamo a Maria di poter avere questa percezione che lei ha avuto lungo tutta la vita, del Signore che era con lei lungo tutte le storie, anche complicate o molto complicate, della sua vocazione. Misteriosamente complicate. Ma questo sta in tutte le vocazioni che possiamo leggere nella Bibbia. Ad Abramo, dopo avergli promesso la terra promessa, e la prima cosa che succede in quella terra promessa è la carestia. Che mistero, no? E a Maria deve correre a Betlemme così, e senza casa, e poi dopo in Egitto, poi ecco col timore di Erode che uccide tutti i bambini sotto i 2 anni. Lei ha avuto la certezza che il Signore era con lei. Noi abbiamo la certezza nella fede che il Signore è con noi e che Maria sempre ci accompagna.